Parlando di Moleskine, quindi di un oggetto che in un certo qual modo ha una storia ed è raccontato attraverso l'utilizzo dei suoi testimonial. Cioè non è un oggetto, non è un quaderno come gli altri, e credo che questo conti qualche cosa nel momento in cui avete provato a appiccicarlo alla rete, a misurarlo con il digitale. Sicuramente. Credo che una delle principali innovazioni della storia della marca Moleskine, che è oltretutto una storia creata da più persone, fortunatamente non sono solo io a portarne il peso, la colpa, ma diciamo è una storia che nasce proprio presentando questo oggetto non come un semplice taccuino, ma come un libro ancora da scrivere, e quindi come qualcosa che porta con sé una memoria, una tradizione, un grappolo di idee culturali forti e che può diventare un accumulatore di emozioni, di identità personale che rilascia la sua carica nel tempo. Questa è una straordinaria operazione di marketing, no? Sapere rivitalizzare come appunto oggetto moderno, oggetto, come dire, in cui ci si possa riconoscere, in cui identitario, un prodotto che è un quaderno di carta, no? Quindi questo forse non lo sai, ma pure questo è marketing, questo direbbe Vecchioni. È il, no? Grande inganno, cioè il grande inganno dell'illusionista che riesce, no, insomma, a reinventare l'illusione. Questo non so se è un grande inganno, forse è anche un grande fortuna, merito. Nel senso, è bello poter pensare di avere delle pagine bianche e nella tasca però di questo taccuino c'è sempre un foglietto che racconta la sua storia, quindi sono delle pagine bianche ma con una traccia di memoria dietro.